con Daniele Lupi del Cine de Tour per parlare del documentario Dreaming Murakami di Nitay Shanjian, che sarà programmato domenica 3 marzo 2019 al de Tour, appunto. Daniele, ben trovato. Ciao, ben trovati a tutti. Che tipo di lavoro è? Dreaming Murakami è un documentario danese del 2017, verrà proiettato, come detto, domenica alle 19 al The Tour nell'ambito di una collaborazione con Cineagenzia che da qualche anno porta in tour per l'Italia i documentari che vengono proiettati durante il Festival della Letteratura, il Festival della Letteratura di Mantova, che si svolge in autunno ogni anno, ha una sezione di proiezioni cinematografiche, per la maggior parte documentari, che si chiama Pagine Nascoste. E successivamente questi documentari, un po' come accade con i documentari di Internazionale, da Ferrara, in quel caso e da Mantova in questo caso, partono per viaggiare in Italia. Quindi Dreaming Murakami è un documentario che, come dice il titolo, ci fa sognare veramente. Di entrare nel mondo ambiguo e nell'immaginario di Murakami. Protagonista del film è la traduttrice danese di Murakami, Mette Holm, che ha tradotto in Danimarca tutti i romanzi di Murakami. La seguiamo mentre lei si appresta a tradurre, paradossalmente, il primo romanzo di Murakami, Ascolta il suono del vento, che ancora non è stato tradotto lì in Danimarca. Quindi è un viaggio nel mondo di Mette Holm, ma è un viaggio nel mondo della traduzione in generale. Il regista Nitay Shanjian è un danese di origine indiana. Il suo primo lavoro, Far From Home, raccontava proprio di come il padre, dopo circa 30 anni, 35 anni mi sembra, di residenza in Danimarca, volle tornare in India, no? E quindi un viaggio da ritroso nel tempo. Ma questo per dire che la necessità del tradurre, no? Di trasformare un linguaggio in un altro, è insita proprio nella genesi, nella vita del regista stesso, no? Nella sua esperienza biografica, familiare. Il confronto che lui ha con Mette Holm e il suo seguirla anche nell'incontrare altri traduttori europei di Murakami, che lo ricordiamo è lo scrittore giapponese più tradotto al mondo, e ci fa riflettere, questo viaggio ci fa riflettere su cosa vuol dire tradurre, sui dubbi che deve affrontare il traduttore, sulla necessità che ha il traduttore di immergersi completamente non solo nell'immaginario di un'altra persona, in questo caso l'autore che ci si appresta a tradurre, ma proprio nella sua stessa vita, e per cui la seguiamo anche in un viaggio a Tokyo. E in tutto questo Murakami non si vede, non c'è, no? Sappiamo che Murakami è restio a farsi riprendere, a farsi intervistare, non appare mai in televisione, non è apparso mai in documentari, no? E il regista non ha neanche provato, diciamo, ad incontrarlo, sapendo questo suo aspetto caratteriale, però ha seguito invece la traduttrice in un suo viaggio in Giappone, no? E lì si vede come c'è, cioè, proprio la dedizione, la cura, no? L'amore anche per il lavoro di questa donna, che si pone anche la domanda: cosa sarei io, no, a questa età senza Murakami, che cosa ne sarebbe stato di me? E però la vediamo appunto immergersi proprio nei dettagli di una vita altra, di un mondo altro, di una mentalità altra, per cercare di svolgere al meglio la sua professione, perché senza una corretta traduzione ci sarebbe impossibile per noi, che abbiamo continuamente desiderio, no, di leggere e conoscere cose che originariamente sono scritte e parlate in altre lingue, sarebbe per noi impossibile aprire la nostra mente, i nostri orizzonti, andare oltre quello che speriamo materialmente tutti i giorni. Daniele, quali sono secondo te gli elementi più convincenti di questo lavoro? Gli elementi più convincenti di questo lavoro sono dare forma a alcune figure di riferimento dell'immaginario di Murakami e il dare voce a colui che combatte una battaglia solitaria, il traduttore, che se la perde, la perde per tutti, e se la vince non riceve un grazie da nessuno. Senti, che tu sappia che sorti ha avuto all'estero questo documentario? Questo documentario sta girando molto perché ovviamente ha un nome, che accende l'immaginario e potrebbe richiamare delle folle di persone. Noi sappiamo che comunque è un autore molto di successo, molto discusso, perché è un autore anche abbastanza critico, che dice, non dice, che vive di simbologie, e quindi è un autore capace di accendere l'immaginario, e sappiamo che si va al cinema per non bruciare un desiderio di immagini che si cova dentro, e quindi diciamo che ha degli elementi, delle carte vincenti. Sta andando bene qui in Italia, non so come sta andando all'estero, ma è stato comunque in tantissimi festival e al momento è distribuito in varie nazioni. Ci lasci a questo punto tutti i riferimenti per l'appuntamento? Volendo potrei anche spendere due parole sul fine settimana del tour. Sì, Come tutti sanno, noi siamo come no. aperti venerdì, sabato e domenica. Venerdì proietteremo ancora una volta La Donna Elettrica, un film che ci sta dando grandissime soddisfazioni, la prima collaborazione del Detour con la Teodora Film, un film che abbiamo scelto di proiettare perché lo abbiamo amato noi in primis, ma vedo che il pubblico, i soci ci seguono. Sabato invece, sabato 2, c'è una serata organizzata in collaborazione con l'associazione Recommon, si parlerà di estrattivismo, Sì, li quindi abbiamo estrazione di sentiti, risorse sì. naturali, sì, in Messico, e mentre domenica alle 19 dei Murakami, alle 20:30 un altro film che abbiamo, di cui se ne è parlato forse perché c'è stata all'anteprima, lo scorso sabato, la presenza del regista, L'Ingrediente Segreto, una commedia macedone molto divertente, e anche questa invitiamo i soci e il pubblico a seguirla perché sta piacendo molto. Bene, allora noi ricordiamo intanto l'appuntamento con Dreaming Murakami di Nitesh Anjan, domenica 3 marzo 2019 al Cine de Tour a Roma. Un saluto e un ringraziamento a Daniele Lupi. Un abbraccio e alla prossima. Ciao. Grazie a te, alla prossima, ciao Federico.